27. Durante tutto quel periodo Wang Lung non aveva quasi pensato ai futuri raccolti, tanto era stato preso dai festeggiamenti per il matrimonio e dai funerali nella sua casa. Ma un giorno Ching andò da lui e disse: "Adesso che la gioia e il dolore sono passati, devo parlarti delle terre." "Dimmi, su," rispose Wang Lung. "In questi giorni non ci ho quasi pensato se non per il fatto di doverci seppellire i miei morti." Ching attese in silenzio per qualche istante, in segno di rispetto per quello che aveva detto Wang Lung, e poi disse cautamente: "Il cielo possa allontanarla, ma tutto fa pensare che quest'anno potrebbe esserci la peggiore alluvione di sempre, perché l'acqua sta salendo sulla terra anche se non è ancora estate, ed è troppo presto perché arrivi in questo modo." Ma Wang Lung disse risoluto: "Non mi è arrivato mai niente di buono da quel vecchio che sta in cielo. Incenso o meno, è sempre lo stesso nel portare il male. Andiamo a vedere la campagna." E parlando si alzò. Ching era un uomo pauroso e timido, e per quanto brutti fossero i tempi, non osava inveire contro il cielo come faceva Wang Lung. Diceva solo: "Lo vuole il cielo." E accettava inondazioni e siccità con mansuetudine. Non così Wang Lung. Andò a vedere la sua campagna, i diversi appezzamenti, e vide che era come aveva detto Ching. Tutti gli appezzamenti lungo il fossato, lungo i canali, che aveva comprato dall'anziano signore della casa dei Huang, erano bagnati e sporchi dell'acqua che filtrava dal fondo, tanto che il buon frumento su quella terra era malsano e giallastro. Il fossato stesso era come un lago e i canali erano fiumi, rapidi e pieni di mulinelli e vortici, e persino uno stupido poteva vedere già adesso, prima delle piogge estive, che quell'anno ci sarebbe stata una brutta alluvione e donne e bambini avrebbero sofferto la fame un'altra volta. Allora Wang Lung corse affannosamente da una parte e dall'altra delle sue terre e Ching lo seguiva silenzioso come un'ombra e stimarono insieme quale terra potesse essere piantata a riso e quale altra sarebbe stata già sotto l'acqua prima che le pianticelle potessero esservi messe. E guardando i canali, già pieni fino al bordo degli argini, Wang Lung si mise a imprecare. "Adesso il vecchio lassù in cielo potrà divertirsi perché guarderà giù e vedrà la gente annegare e morire di fame, ed è quel che piace a quel maledetto." Parlò ad alta voce e con rabbia, tanto che Ching, tremando, disse: "Anche così è più grande di tutti noi. Non parlare così, mio padrone." Ma Wang Lung, essendo ricco, non ci badava e si arrabbiava tanto quanto gli andava di farlo, e camminando verso casa brontolava al pensiero dell'acqua che inondava la sua terra e i buoni raccolti. Poi tutto accadde come Wang Lung aveva previsto. Il fiume a nord ruppe gli argini, prima quelli più lontani, e quando gli uomini videro cos'era successo, si misero a correre dappertutto e a raccogliere soldi per ripararli, e ognuno diede quel che poteva perché era nell'interesse di ciascuno tenere il fiume all'interno dei suoi limiti. Affidarono poi i soldi al magistrato del distretto, un uomo nuovo, appena arrivato, e questo magistrato era un povero uomo che non aveva mai visto tanti soldi in tutta la sua vita ed era salito da poco in quella posizione grazie alla munificenza di suo padre, che aveva messo insieme tutti i soldi che possedeva e che era riuscito a prendere in prestito al fine di acquistare quel posto per suo figlio, così che la famiglia potesse derivarne un po' di ricchezza. Quando il fiume ruppe nuovamente gli argini, la gente andò a protestare, gridando davanti alla casa del magistrato, perché non li aveva fatti riparare come promesso. Lui allora fuggì e si nascose perché aveva speso i soldi per la sua casa ed erano addirittura 3.000 pezzi d'argento. E la gente comune irruppe nella sua casa, urlando e chiedendo la sua vita per quel che aveva fatto. E quando lui capì che l'avrebbero ucciso, corse e saltò in acqua e si annegò. E la gente ne fu contenta. Però e i soldi non c'erano più, e il fiume ruppe un altro argine, poi un altro ancora, prima di saziarsi dello spazio che aveva per sé, e poi erose le pareti di terra fin quando nessuno poté più dire dove in tutta la campagna fosse stato un argine. E il fiume si gonfiò e riversò come un mare sopra la buona terra coltivabile, e il frumento e il giovane riso si ritrovarono sul fondo del lago. Uno dopo l'altro i villaggi si trasformarono in isole e gli uomini osservavano il fiume che si sollevava e quando arrivava a due piedi dalla loro porta di casa legavano insieme i tavoli e i letti e vi mettevano sopra le porte delle loro case come zattere, ammucchiandovi il più possibile delle loro coperte, dei loro vestiti, insieme alle donne e ai bambini. E l'acqua saliva nelle case di terra e smollava le pareti e le faceva crollare, così che poi si scioglievano. Ed era come se non fossero mai esistite. Poi, come se l'acqua sulla terra tirasse l'acqua dal cielo, piovve come se non avesse mai piovuto prima, giorno dopo giorno continuava a piovere. Wang Lung sedeva davanti alla soglia e guardava le acque ancora distanti dalla sua casa, che era costruita su un'alta e vasta collina. Vide però le acque ricoprire le sue terre e temeva che sommergessero le tombe fresche, ma ciò non avvenne. Anche se le onde di quell'acqua gialla, piena di argilla, lambivano avide i morti. Quell'anno non ci fu nessun raccolto, dappertutto la gente moriva e aveva fame e provava rabbia per quel che era nuovamente capitato. Alcuni andarono al sud e alcuni che erano coraggiosi e arrabbiati e non si preoccupavano di niente, si unirono alle bande dei briganti che imperversavano ovunque nelle campagne. Queste tentarono addirittura di assediare le città, tanto che gli abitanti chiusero tutte le porte delle mura, tranne una piccola, chiamata la Porta dell'Acqua Occidentale, la quale era sorvegliata dai soldati e chiusa anch'essa la notte. E oltre a quelli che facevano i briganti e a quelli che andavano al sud a lavorare e mendicare, come Wang Lung aveva fatto un tempo con suo padre, sua moglie e i figli, c'erano altri che erano vecchi e stanchi e paurosi e che non avevano figli, come Ching, e questi facevano la fame e mangiavano l'erba e le foglie che potevano trovare nei posti sopraelevati, e molti morirono nella campagna e nell'acqua. Wang Lung vide allora una carestia mai vista là, perché l'acqua non si ritirò in tempo per piantare il frumento per l'inverno e quindi l'anno dopo non ci sarebbe stato raccolto. E badò alla propria casa e ai soldi e al cibo e litigò accesamente con Cucù, che a lungo continuò a comprare ogni giorno carne in città. E alla fine fu contento che, siccome l'inondazione non si poteva più evitare, l'acqua almeno si frapponesse tra la sua casa e la città, così che lei non potesse più andare al mercato quando voleva, perché Wang Lung non consentiva che si usassero le barche se non quando lo diceva lui, e Ching ascoltava lui e non Cucù, nonostante la sua lingua affilata. Dopo l'arrivo dell'inverno, Wang Lung ordinò che niente fosse comprato e venduto tranne quello che diceva lui, e amministrò con attenzione tutto quel che avevano. Ogni giorno dava a sua nuora il cibo necessario alla casa per quel giorno e a Ching dava quel che spettava ai braccianti, benché gli desse fastidio dare da mangiare a persone che non facevano niente, al punto che una volta, arrivato l'inverno, quando l'acqua si era ormai congelata, ordinò agli uomini di andare al sud a mendicare e a faticare là fino a primavera, quando avrebbero potuto fare il ritorno da lui. Solo a Lotto diede segretamente zucchero e olio perché non era abituata alle difficoltà. Persino a Capodanno mangiarono solamente un pesce che avevano preso nel lago e un maiale ucciso nella fattoria. Wang Lung non era povero come voleva apparire perché aveva del buon argento nascosto nelle pareti della stanza dove suo figlio dormiva con la moglie, anche se il figlio e la nuora non lo sapevano, e aveva del buon argento e persino dell'oro nascosto in un vaso sul fondo del lago, sotto il campo più vicino, e ne aveva un po' nascosto tra le radici dei bambù, e aveva grano dell'anno prima che non aveva venduto al mercato, e in casa sua non c'era il rischio di morire di fame. Ma intorno a lui c'era gente che aveva fame e ricordò le grida degli affamati davanti al portone della grande casa, quella volta che era passato di là, e sapeva che c'erano molti che lo odiavano perché aveva ancora da mangiare e di che nutrire i suoi figli, e quindi teneva le sue porte sbarrate e non lasciava entrare nessuno che non conoscesse. Eppure sapeva molto bene che persino questo non avrebbe potuto salvarlo in quell'epoca di briganti e di anarchia, se non fosse stato per suo zio. Wang Lung sapeva bene che se non fosse stato per il potere di suo zio, sarebbe stato assalito e depredato del cibo e dei soldi e delle donne di casa. Quindi era gentile con lo zio e con suo figlio. E i tre erano come ospiti in casa sua. Bevevano il tè prima degli altri e all'ora dei pasti erano i primi ad infilare le bacchette nelle ciotole. Quei tre vedevano bene che Wang Lung aveva paura di loro. Allora diventarono altezzosi e e pretendevano questo e quello, lamentandosi di quel che mangiavano e bevevano. E soprattutto si lamentava la donna, a cui mancavano le prelibatezze che aveva assaggiato nelle corti interne, e si lamentò con il marito, e i tre si lamentarono con Wang Lung. Wang Lung capiva che mentre lo zio stava diventando vecchio e pigro e indifferente e non si sarebbe preso la briga di lamentarsi se fosse stato solo, il giovane che era suo figlio e sua moglie lo pungolavano. E un giorno che Wang Lung stava al portone, sentì i due incalzare il vecchio: «Ha soldi e cibo! Pretendiamo da lui dell'argento!» E la donna disse: «Non avremo più un'occasione del genere, perché sa bene che se tu non fossi suo zio e il fratello di suo padre, l'avrebbero rapinato e saccheggiato, e la sua casa sarebbe un rudere vuoto, perché tu sei vicino al capo delle Barbe Rosse.» Quando Wang Lung, nascosto lì accanto, sentì questo, si infuriò al punto che la sua pelle stava per esplodere, ma con un grande sforzo riuscì a restare in silenzio e cercò di escogitare un piano riguardo a quei tre. Però non gli venne in mente nulla. Perciò, quando il giorno dopo lo zio andò da lui dicendo: «Bene, mio bravo nipote, dammi una manciata d'argento così che possa comprarmi una pipa e un po' di tabacco, e mia moglie è vestita di straci e ha bisogno di una giacca nuova.» Wang Lung non poté dire nulla, ma digrignando dentro di sé i denti, porse al vecchio i 5 pezzi d'argento che aveva nella cintura, e gli sembrò di non avere mai dato così malvolentieri dell'argento, nemmeno un tempo quando ne aveva posseduto solo di rado. Poi, nemmeno 2 giorni dopo, lo zio tornò da lui, e poi ancora e ancora, tanto che alla fine Wang Lung gridò: «Beh, vuoi farci morire presto di fame?» E suo zio rise e disse con indifferenza: «Sei sotto un buon cielo. Ci sono uomini meno ricchi di te che sono finiti appesi alle travi bruciate delle loro case.» Sentendo questo, Wang Lung prese a sudare freddo e senza una parola gli diede l'argento. E così, anche se in casa non mangiavano carne, quei tre dovevano mangiarla, e anche se Wang Lung non fumò quasi tabacco, suo zio aspirava incessantemente la sua pipa. Il figlio maggiore di Wang Lung era stato assorbito dal suo matrimonio e non capiva cosa stesse succedendo, e si preoccupava solo di proteggere gelosamente sua moglie dallo sguardo del cugino, tanto che ormai i due non erano più amici, ma nemici. Il figlio di Wang Lung non faceva più uscire la moglie dalla loro stanza se non verso sera, quando l'altro uomo se n'era andato con suo padre, e durante il giorno la teneva chiusa lì dentro. Ma vedendo quei tre fare ciò che volevano con suo padre, si arrabbiò perché aveva un carattere irascibile. Gli disse: «Beh, se ti importa più di quelle tre tigri che non di tuo figlio e sua moglie, la madre dei tuoi nipoti, tutto questo è molto strano e sarebbe meglio per noi prendere casa altrove.» Wang Lung gli raccontò apertamente quel che non aveva raccontato a nessuno. «Odio quei tre più della mia vita, e se potessi trovare una soluzione la adotterei. Ma tuo zio è signore di un'orda di briganti scatenati, e se gli do da mangiare e lo vezzeggio, siamo salvi e nessuno può mostrare rabbia contro di loro.» Quando il figlio maggiore ebbe sentito questo, sgranò gli occhi fino a farli saltare quasi fuori dalle orbite, ma dopo averci pensato un po' era più arrabbiato che mai e disse: «Cosa ne dici se li buttiamo tutti in acqua una notte? Ching può spingere la donna perché è grassa e molle e indifesa, io spingo mio cugino che è giovane e lo odio perché guarda sempre mia moglie, e tu invece puoi spingere l'uomo.» Ma Wang Lung non era capace di uccidere, anche se avrebbe preferito uccidere lo zio al posto del bue. Non era capace di uccidere nemmeno quando odiava, e disse: «No. E anche se potessi fare una cosa del genere, spingere in acqua il fratello di mio padre, non lo farei, perché cosa faremmo se gli altri briganti lo venissero a sapere? E se lui è vivo, noi siamo salvi, e se lui non c'è più, noi diventiamo come gli altri che hanno qualcosa, e quindi in tempi come questi sono in pericolo.» Allora tacquero entrambi, ognuno pensando intensamente a cosa fare. Il giovane vide che suo padre aveva ragione, che la morte era una soluzione troppo facile al problema e che doveva esserci un altro modo, e alla fine Wang Lung parlò a voce alta, riflettendo: «Se ci fosse un modo per tenerli qui, ma renderli innocui e privi di desideri, sarebbe magnifico, ma una magia così non esiste.» Allora il giovane batté le mani ed esclamò: «Me l'hai appena detto tu cosa dobbiamo fare. Compriamogli dell'oppio e poi ancora oppio, così che ne sviluppino la voglia, come i ricchi. Farò finta di essere di nuovo amico di mio cugino e lo attirerò nella casa da te in città dove si può fumare, e possiamo comprarlo per lo zio e sua moglie.» Ma Wang Lung, poiché non aveva avuto lui per primo l'idea, era dubbioso. Costerà moltissimo, disse lentamente, perché l'oppio è caro come la giada. Bene, e costa più della giada averceli contro, argomentò il giovane, e sopportare inoltre la loro arroganza, il giovane che guarda mia moglie. Ma Wang Lung non volle acconsentire subito, perché non era una cosa facile da fare, sarebbe costata un bel sacco d'argento. È impossibile dire se la cosa sarebbe mai stata fatta o se non sarebbe andata avanti a quel modo fino a ritirarsi delle acque se non si fosse verificato un certo fatto. Avvenne infatti che il figlio dello zio di Wang Lung mettesse gli occhi sulla seconda figlia di Wang Lung, che era sua cugina, e in rapporto di sangue, come se fosse stata sua sorella. La seconda figlia di Wang Lung era una ragazzina estremamente graziosa, assomigliava al secondo figlio che faceva il mercante, ma era piccola e leggiadra e non aveva la pelle gialla del fratello. La sua pelle era chiara e pallida come un fiore di mandorlo, aveva il nasino basso e sottili labbra rosse e i suoi piedi erano piccoli. Suo cugino la afferrò una sera mentre lei attraversava da sola la corte dalla cucina. L'afferrò rozzamente, le infilò una mano nel seno e lei gridò. E Wang Lung corse fuori e colpì l'uomo sulla testa. Ma lui era come un cane che non vuole mollare un pezzo di carne rubata. E Wang Lung dovette strappargliela. Al che l'uomo scoppiò in una risata chioccia e disse: È solo un gioco, non è forse mia sorella? O un uomo può fare qualcosa di brutto con sua sorella? Ma mentre parlava i suoi occhi luccicavano di libidine e Wang Lung borbottando gli strappò la ragazzina e la mandò nella sua stanza. E quella sera Wang Lung disse a suo figlio cos'era successo e il giovane assunse un'espressione grave e disse: Dobbiamo mandarla in città, in casa del suo fidanzato. Anche se il mercante Liu dice che è un anno troppo brutto per un matrimonio, dobbiamo mandarla là o non riusciremo a mantenerla vergine con questa tigre furiosa in casa. Wang Lung fece così. Il giorno dopo andò in città e a casa del mercante e disse: Mia figlia ha 13 anni e non è più una bambina ed è pronta al matrimonio. Ma Liu si mostrò esitante e disse: Non ho abbastanza guadagni quest'anno per dare inizio a una famiglia in casa mia. Ma Wang Lung si vergognava di dire: In casa c'è il figlio di mio zio ed è una tigre, e quindi disse soltanto: Vorrei non dovermi preoccupare di lei, perché sua madre è morta e lei è graziosa e in età da poter concepire, e la mia casa è grande e piena di tutto e non posso sorvegliarla ogni minuto. Visto che apparterrà alla tua famiglia, fai sorvegliare qui la sua verginità e falla sposare presto o tardi, come preferisci. Allora il mercante, che era un uomo mite e gentile, rispose: Beh, se le cose stanno così, fai venire la ragazza e io parlerò alla madre di mio figlio, così che lei possa venire ad essere al sicuro nella corte con sua suocera e dopo il prossimo raccolto si potrà sposare. E così la faccenda fu sistemata e Wang Lung contento se ne andò. Ma sulla via del ritorno verso la porta della città, dove Ching lo aspettava con una barca, Wang Lung passò davanti a un negozio dove vendevano tabacco e oppio ed entrò per comprarsi un po' di tabacco sbriciolato da mettere la sera nella sua pipa ad acqua. E quando il commesso l'ebbe pesato sulla bilancia, gli chiese un po' riluttante: Quanto viene l'oppio se ne avete? E il commesso disse: Di questi tempi è illegale venderlo al banco e così non lo vendiamo, ma se vuoi comprarlo e hai l'argento, viene pesato nella stanza qui dietro, un'oncia per un pezzo d'argento. Allora Wang Lung, senza pensare a cosa stava facendo, disse rapidamente: Ne voglio 6 once. 28. In seguito, dopo che la seconda figlia fu allontanata e Wang Lung non dovette più preoccuparsi per lei, un giorno disse a suo zio: Siccome sei il fratello di mio padre, ecco per te un po' del miglior tabacco. E aprì il vaso dell'oppio, appiccicose dall'odore dolciastro. E lo zio di Wang Lung lo prese, lo annusò, poi rise contento e disse: Molto bene, ne ho fumato un po', ma non spesso perché è troppo caro, ma mi piace molto. E Wang Lung gli rispose, fingendo indifferenza: È solo un piccolo avanzo di quello che ho comprato una volta per mio padre, quando era invecchiato e non riusciva a dormire la notte, e oggi l'ho trovato e ho pensato: C'è il fratello di mio padre, e perché non dovrebbe averlo prima di me, visto che sono più giovane e non ne ho ancora bisogno? Prendilo e fumalo quando vuoi, o quando sei indisposto dal dolore. Lo zio di Wang Lung lo prese avidamente perché aveva un profumo dolce ed era qualcosa che solo i ricchi usavano, e lo prese e si comprò una pipa, e disteso tutto il giorno a letto fumava il suo oppio. Allora Wang Lung fece acquistare delle pipe e le lasciò qua e là, fingendo lui stesso di fumare, ma si portava solamente una pipa nella sua stanza e non l'accendeva nemmeno. E ai due figli in casa e a Loto non permise di toccare l'oppio, dicendo a propria discolpa che era troppo caro, ma invitava a fumarlo lo zio e la moglie e il figlio. E le corti erano piene dell'odore dolciastro del fumo, e Wang Lung non lesinava l'argento perché gli acquistava la pace. Ora, mentre l'inverno volgeva verso la fine e le acque cominciavano a ritirarsi, tanto che Wang Lung poteva camminare in lungo e in largo sulla propria terra, un giorno avvenne che il figlio maggiore lo seguì e gli disse con orgoglio: «Presto ci sarà un'altra bocca in casa, e sarà la bocca di tuo nipote!» Sentendo questo, Wang Lung si girò e rise, e sfregando le mani disse: «Questo è davvero un buongiorno!» E rise ancora e andò a cercare Ching per dirgli di andare in città a comprare del pesce e del buon cibo. E lo mandò dalla moglie di suo figlio e disse: «Mangia, rendi forte il corpo di mio nipote». Poi, durante la primavera, la consapevolezza di quella nascita fu per Wang Lung un conforto. E quando era impegnato con altre cose, pensava a quello e ci pensava quando era preoccupato ed era per lui un conforto. E nel momento in cui la primavera stava per mutarsi in estate, quelli che erano andati via a causa dell'inondazione tornarono uno a uno e un gruppo dopo l'altro, stanchi e stremati dall'inverno e felici di essere nuovamente lì, anche se dove un tempo c'erano le loro case non restava più nulla, tranne il fango giallo della terra imbevuta d'acqua. Ma con quel fango era possibile fare altre case e si potevano comprare stuoie da utilizzare come tetti e molti andarono da Wang Lung a chiedere in prestito dei soldi e lui li dava ad alto interesse, vedendo quanto fosse grande la domanda e in garanzia voleva che ci fosse sempre la campagna. E con i soldi presi in prestito piantarono semi nella terra che era grassa della ricchezza dell'acqua ormai asciugata e quando avevano bisogno di buoi e di semi e di aratri e quando non riuscivano più a prendere in prestito dei soldi, molti vendevano la campagna e parte dei loro campi in modo da poter coltivare quel che restava. E Wang Lung comprava da loro terreni, molti terreni, e li comprava a poco prezzo perché gli uomini hanno bisogno di soldi. Ma c'erano quelli che non volevano vendere le loro terre e quando non avevano niente da vendere con cui comprare semi, aratri e buoi, vendevano le figlie. E ci furono quelli che andarono da Wang Lung a venderle perché si sapeva che era ricco e potente e un uomo di buon cuore. E pensando di continuo al bambino in arrivo e agli altri che sarebbero venuti dai suoi figli quando fossero stati tutti sposati, comprò 5 schiave. Due di circa 12 anni, dai piedi grandi e dal corpo forte, e due più piccole che servissero tutti e andassero a prendere e portare le cose, e una per Loto perché Cucù era invecchiata e siccome la seconda figlia se n'era andata, non c'era più nessuno che lavorasse in casa. E comprò le 5 schiave lo stesso giorno perché era abbastanza ricco da poter fare in fretta quel che aveva deciso. Poi un giorno, molti giorni dopo, un uomo arrivò portando con sé una bambina piccola e delicata sui 7 anni di età e voleva venderla. Wang Lung disse all'inizio che non la voleva perché era così piccola e debole. Ma Loto la vide, le piacque e disse incapricciata: «Questa la voglio perché è così graziosa, mentre l'altra è rozza e puzza di capre e non mi piace». E Wang Lung la guardò e vide i suoi occhi belli e spaventati e com'era pietosamente magra. E disse in parte per assecondare Loto e in parte per poter vedere la bambina nutrita e ingrassata: «Bene, sarà così se lo vuoi». Per 20 pezzi d'argento comprò allora la bambina che visse nelle corti interne e dormiva ai piedi del letto dove dormiva Loto.